Sì, l'obiettivo di un tecnico è quello di creare in Italia un'organizzazione, direi diffusa a livello nazionale, in grado di operare su tutto il territorio, sia a domicilio, quindi a casa o in ufficio, e sia online, quindi attraverso il supporto remoto, con una copertura appunto totale del territorio nazionale e soprattutto con una capacità di erogazione di questi servizi con una qualità sempre coerente, sempre diciamo funzionale a quello che sono i problemi dei clienti. Oggi il mercato esiste ma è estremamente frammentato, quindi sono piccoli operatori che non garantiscono qualità e sempre il prezzo adeguato al tipo di intervento che deve essere eseguito. Questa è un'idea che all'estero già esiste. All'estero esistono delle società molto importanti e organizzate, la più importante che noi conosciamo si chiama Geek Squad negli Stati Uniti ed è una società che ormai ha migliaia di tecnici che operano tutti i giorni una serie di servizi, ha articolato un'offerta estremamente interessante, quindi in pratica ha industrializzato questo settore. Noi vogliamo in Italia ricreare una condizione simile diventando una delle aziende leader che si occupano di assistenza tecnica. Senta, quali tipi di problemi voi puntate a risolvere? Diciamo, i problemi più classici che oggi si vengono proposti e che sono anche quelli che affliggono il privato e anche il professionista sono problematiche di innanzitutto di sicurezza, quindi sicurezza di reti, configurazione di tecnologia, reti piuttosto che PC, reti, piccole reti locali. E poi tutto quello che riguarda la sicurezza dei dati, la privacy, il controllo dei contenuti per i minori, il recupero di dati persi a causa di attacchi informatici piuttosto che di problematiche hardware o diciamo semplicemente password dimenticate. Quindi una serie di problemi che sono o performance per esempio del PC, quindi incapacità di accedere ad alcuni servizi sulla rete internet, quindi l'email eccetera. Questi sono i problemi diciamo più classici che ci vengono proposti.